Runtime Radio presenta Ich bin ein Berliner. Houston, we've had a problem. Delenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. Well, Spassky is waiting. Right, and it waiting and wondering whether Bobby will show or not show. And there's absolutely dead silence in the hall. Spassky is pacing, he's nervous, and... Wait, here comes Fisher, coming on the stage, saying that he was caught in traffic. And I think Spassky was visibly relieved. And also perhaps pained. Now, for the first time, we're looking at Bobby Fischer, the man that eight times has won the United States Open. There's his first move, one knight to king, bishop three. Very non-committal. Now watch, see Fischer turn around here? Yeah. He's checking to see that camera location. And now he goes over to protest those cameras being there. There's Lothar Schmidt in the background. I cannot have that, please. Spassky remains serene and imperturbable throughout all this. Ci racconta Paolo Maurensig nel romanzo La variante di Lunenburg, che vi consiglio di leggere se ancora non lo aveste fatto, che sembra che l'invenzione degli scacchi sia legata a un fatto di sangue. Narra infatti la leggenda che quando il gioco fu presentato per la prima volta a corte, il sultano volle premiare l'oscuro inventore, esaudendo ogni suo desiderio. Questi chiese per sé un compenso apparentemente modesto, di avere cioè tanto grano quanto poteva risultare da una semplice addizione, un chicco sulla prima delle 64 caselle, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via. Ma quando il sultano, che aveva in un primo tempo accettato di buon grado, si rese conto che a soddisfare una simile richiesta non sarebbero bastati i granai del suo regno e forse neppure quelli di tutta la terra, per togliersi dall'imbarazzo stimò opportuno mozzargli la testa. Una delle leggende moderne del gioco degli scacchi, l'ex campione del mondo, Garry Kasparov, sostiene che gli scacchi siano il gioco più violento che esista. Ed in effetti gli scacchi sono straordinariamente violenti. Sono l'arte della guerra, giocata con una precisione estenuante. Per molti è solo un gioco, ma per coloro che lo capiscono è molto di più. Essi contemplano sacrifici, imboscate, attacchi e difese. È un gioco per schiacciare mentalmente l'avversario, per distruggerlo. Alcuni grandi maestri sbraitano e inveiscono contro i loro avversari per distogliere la loro concentrazione. Altri coltivano uno sguardo gelido progettato per innervosire la persona dall'altra parte della tavola. Più di qualche gran maestro è impazzito o è scomparso dalla circolazione. Molti sono antisociali. Tutti hanno un ego abnormemente grande. Gli scacchi sono brutali. Gli scacchi sono violenti. Gli scacchi sono la guerra. Oggi parleremo di una partita che ha fatto letteralmente la storia. Non solo degli scacchi, ma anche della geopolitica mondiale. Ma per farlo dobbiamo raccontare innanzitutto la storia di un giovane americano, Robert James Fischer, detto Bobby. Fischer nasce a Chicago il 9 marzo 1943, figlio di Regina Wender e, secondo la madre, del biofisico tedesco Gerhard Fischer. La madre, ebrea svizzera di origine polacca, aveva studiato all'Università di Mosca, dove aveva conosciuto Gerhard Fischer, che aveva sposato nel 1933, e dove nel 1938 era nata la loro figlia Johan. Nel 1945 divorziarono, ma nel frattempo Regina aveva fatto ritorno negli Stati Uniti. In un articolo del 2002 sul Philadelphia Inquirer, Peter Nicholas e Clea Benson sostengono, con prove documentate, cioè gli archivi dell'FBI, che il vero padre biologico di Fisher fosse in realtà il fisico ebreo-ungherese Paul Nemienry. Gerard Fisher, infatti, non poteva essere il padre di Bobby. Quando Regina rientrò negli Stati Uniti nel 1939, a Gerard venne negato il permesso di immigrazione per le sue sospette simpatie comuniste. Bobby, notoriamente, cominciò a giocare a scacchi all'età di 6 anni, quando la famiglia si trasferì a Brooklyn, leggendo il libretto di istruzioni della sua scacchiera. All'età di 13 anni, la madre chiese a Jack Collins di diventare il suo maestro di scacchi ed egli acconsentì. Il suo primo successo arrivò nel luglio 1956, quando vinse il campionato juniores statunitense, che lo qualificava al campionato maggiore. Nello stesso anno, giovanissimo, giocò una partita divenuta famosa come la partita del secolo, contro il futuro maestro internazionale Donald Byrd. Nel gennaio 1958, egli vinse il campionato della sua regione degli Stati Uniti e si qualificò al torneo interzonale, risultato che gli valse il titolo di maestro internazionale. Samuel Reshevsky, il grande favorito del torneo, e molti fra i migliori maestri americani in attività, non impedirono a Bobby di vincere imbattuto il torneo. Nel 1959 Fisher partecipò per la terza volta al campionato americano. Vinse ancora il campionato con grande facilità, come le successive 5 edizioni, tutte quelle a cui partecipò. In quello del 1963-64 egli addirittura vinse tutte le partite. Fisher stava spazzando via i suoi avversari come fossero mosche, arrivando ad una striscia di 20 partite vincenti, cosa inaudita nei campionati di scacchi. Fisher aveva già battuto ed in alcuni casi distrutto alcuni dei migliori giocatori sovietici. Mentre Henry Kissinger faceva avanti e indietro dal Vietnam e lo scontro Stati Uniti-Unione Sovietica si faceva sempre più aspro, sia negli Stati Uniti che in Unione Sovietica, sebbene con visioni opposte, Bobby Fisher comincia ad occupare i primi servizi nei notiziari. Egli continuerà con il suo comportamento scostante e provocatorio, talvolta sparendo per anni, salvo riapparire per rendere dichiarazioni che infuocavano gli animi, già da principio, come ad esempio quelle misogine contro la campionessa femminile Lisa Lane, che pure lo celebrò come il migliore di tutti, cui egli rispose che, sebbene tecnicamente ciò fosse vero, la Lane, in quanto donna, era troppo stupida per poterlo affermare. Battendo l'ex campione del mondo, Tigran Petrosyan, dell'Unione Sovietica, in un torneo a Palma de Mallorca, Fisher conquisterà il diritto di giocare contro il campione del mondo Boris Spassky per il titolo. L'Unione Sovietica, una delle due superpotenze, aveva fatto degli scacchi il suo sport nazionale, spendendo una quantità illimitata di denaro. Essi avevano vinto ogni torneo, ogni Olimpiade degli scacchi. Per i sovietici, mantenere la corona era molto importante. Ideologicamente, questa vittoria avrebbe significato una prova di superiorità intellettuale sul decadente Occidente. Ai migliori giocatori veniva garantito un importante aiuto statale per prepararsi al meglio. In Occidente non c'era nulla di tutto questo. Un americano solitario, che era solito prepararsi in totale autonomia, avrebbe dovuto combattere la potenza della macchina scacchistica sovietica. Quindi facciamo un passo indietro. Bobby Fischer è già il campione degli Stati Uniti a 15 anni ed ha sconfitto i più grandi maestri. Sua madre Regina era una donna che ha dovuto fare due lavori come madre single per mantenere due figli. Regina era davvero la guida della famiglia, parlava molte lingue, incluso il russo. Ha lavorato come operatrice telegrafica, infermiera e saldatrice. Ha anche ottenuto un dottorato di ricerca in ematologia. Era un attivista ed era una comunista. E i file dell'FBI su di lei sono abbastanza estesi. Infatti, fu osservata molto da vicino, perché pensavano che potesse essere una spia sovietica. In questa situazione, piena di paure e paranoie, che aveva ancora scorie di maccartismo negli Stati Uniti, il giovane Bobby svilupperà un interesse ossessivo nel perfezionare la propria capacità di giocare a scacchi. Egli vi dedicava ininterrottamente ogni momento della giornata. Persino quando mangiava, aveva sempre con sé una scacchiera e studiava nuove varianti. Non frequentava amici, non era interessato all'altro sesso. Egli giocava con se stesso, ininterrottamente. La madre, preoccupata, lo portò anche da uno psichiatra, che però non trovò nulla di malato in lui, e forse si sbagliava. Ma torniamo alla sfida per il titolo mondiale. la Federazione Internazionale di Scacchi vuole assegnare all'Islanda, che ha offerto la cifra più alta, l'organizzazione della partita. Così chiede a Fischer se egli avrebbe accettato una sfida in 24 partite da tenersi a Reykjavik. Fischer era imprevedibile. Ogni cosa era possibile con lui. Egli aveva infatti già abbandonato tornei in precedenza e si ostinava a non voler rispondere alla Federazione Internazionale. Spassky, il campione sovietico, nel frattempo si recò in Islanda ben 12 giorni prima della partita per abituarsi al posto. Fischer, con enorme fatica, fu portato all'aeroporto Kennedy per la partenza. Ma mentre il gruppo era diretto al banco delle compagnie aeree islandesi, un fotografo del Daily News cominciò a fotografarlo e Bobby iniziò tutto un tratto a correre, scappando fuori dall'aeroporto e scomparendo. Mancavano solo 3 giorni all'inizio previsto della partita. La storia degli scacchi era in pericolo. La Federazione Internazionale rinvierà di 48 ore l'inizio del match, ma con un ultimatum. Se Fischer non si fosse presentato entro mezzogiorno del martedì, sarebbe stato squalificato. Nel frattempo, l'Unione Sovietica era furiosa. Aveva la sensazione che il campione mondiale di scacchi fosse umiliato da questo americano. Volevano richiamare Spassky in Unione Sovietica. A quel punto, per uscire dall'impasse, Kissinger stesso chiamò Fischer per convincerlo ad andare e ci fu una donazione che raddoppiò il premio da 125 a 250 mila dollari. E finalmente Bobby partì per Reykjavik. L'arrivo fu incredibile. Egli fu ricevuto come un re. La folla era incontenibile. Fischer scese dall'aereo e, sorprendendo tutto e tutti, compresa la delegazione ufficiale, salì in auto e si recò in albergo. Ma non era ancora finita. Fischer è in Islanda, ma giocherà davvero per il campionato del mondo? L'attenzione nel mondo era massima. In Islanda c'erano il governo islandese, il presidente islandese, l'ambasciatore dell'Unione Sovietica, l'ambasciatore degli Stati Uniti e molti ospiti stranieri. Il teatro sede dell'incontro era pieno. I programmi regolari in televisione furono sospesi. Molti guardavano nei televisori dei grandi magazzini. Lo schermo di Times Square a New York mostrava la diretta del gioco dal vivo, come e più del Super Bowl, per una partita di scacchi. Una cosa impensabile, lunare fino a pochi anni prima. 11 luglio 1972, prima partita. Fischer si presenterà con 9 minuti di ritardo, come abbiamo sentito nella registrazione iniziale. A partita iniziata e orologio avviato. Egli avrà un inizio brillante, ma commetterà un errore disastroso che lo porterà alla sconfitta. La seconda partita non ebbe luogo. Fischer fece una serie interminabile di richieste agli organizzatori che rifiutarono e diedero la sconfitta a tavolino all'americano. 16 luglio 1972, terza partita. Molti ormai davano Fischer per sconfitto e scommettevano che avrebbe lasciato l'Islanda. Ma così non fu. Egli rimase, si narra di un'ulteriore telefonata di Kissinger, e comincerà inesorabilmente a demolire il campione russo. Spassky cominciò a dare segni di nervosismo sempre più accentuati. Addirittura fece ispezionare le sedie perché era convinto contenessero un macchinario che gli annebbiava il pensiero. In realtà egli non riusciva a sopportare la tensione e il comportamento di Fischer, che sempre di più appariva invincibile ed al comando. 31 agosto 1972, 21esima e ultima partita. Dopo ore di gioco, la partita fu sospesa e, come previsto, fu scritta in una busta chiusa l'ultima mossa per poter riprendere il gioco il giorno successivo. Ma ciò non avvenne mai. Spassky comunicò l'abbandono ed il 1 settembre 1972 Bobby Fischer, a 29 anni, venne proclamato 11° campione del mondo di scacchi in una cerimonia cui non volle partecipare Spassky. I telegiornali americani diedero la notizia prima di quella del Watergate ed egli diventò un eroe nazionale. This is NBC Nightly News, Friday, September 1st. Good evening. We'll have more on the developments in the Watergate bugging case. We'll hear George McGovern talking about tightening up his campaign organization, and we'll have a look at the new unemployment figures. And first, Bobby Fischer. Today was the day when Fischer and the Russian champion Boris Spassky were to have finished the 21st game of the World Championship, a game they started yesterday. But Spassky, after what must have been an agonizing night spent analyzing his position, didn't even show up to play. Negli Stati Uniti la sua popolarità raggiunse vette incredibili e si moltiplicarono i giocatori di scacchi, nel paese ed in tutto il mondo, come il merchandising a lui legato, sebbene egli non giocherà mai più partite ufficiali. E poi Bobby Fischer sparì. Quando nel 1975 venne il momento di difendere il titolo, egli pose condizioni capestro alla federazione, che gli concesse quasi tutto, ma per Fischer non fu abbastanza ed egli abbandonò. Anatoly Karpov fu dichiarato campione del mondo per forfè. Nel mondo degli scacchi non mancano certo esempi di giocatori eccezionali con evidenti problemi mentali. Viktor Korchnoi giocò una famosa partita con un morto contattato attraverso un medium. Akiba Rubinstein saltò fuori dalla finestra perché convinto di essere inseguito da una mosca. William Steinitz, in tarda età, pensava di giocare a scacchi via radio con Dio, eppure di batterlo. E poi ci fu il grande Paul Murphy, che ricorda il connazionale Bobby Fischer molto da vicino. Murphy fu un giocatore americano che stupì il mondo con il suo modo fantastico di giocare a scacchi. Il suo tour in Europa nel 1958-59 fu uno degli eventi più indimenticabili nella storia degli scacchi. E poi smise anche egli di giocare. All'età di 26 anni egli vagava per le strade senza meta, borbottando tra sé e sé, e divenne uno schizofrenico paranoico. Fischer riapparirà nel 1990. Egli aveva ricevuto una lettera da una scacchista ungherese di 19 anni, Zita Reichsarmé. «Signor Fischer, lei è il Mozart del mondo degli scacchi. Voglio che torni a giocare a scacchi». Come risultato del loro successivo incontro, Zita si precipitò ad organizzare il ritorno di Bobby. Nel mondo degli scacchi, tutti aspettavano il suo ritorno da 20 anni. Mese dopo mese, anno dopo anno, innumerevoli sono state le leggende metropolitane ed i suoi avvistamenti in partite in ogni dove. Ma stavolta era vero. Fischer avrebbe giocato di nuovo contro Spassky in Jugoslavia durante la guerra jugoslava e partecipando Fischer decise di violare l'embargo americano al paese. Il governo americano gli mandò una lettera assai esplicita, gli ordinò di non giocare e se lo avesse fatto egli sarebbe andato in prigione. Per tutta risposta, Bobby Fischer sputò sulla lettera del governo americano davanti alle telecamere e la rivincita si tenne. Fu una partita onorevole, ma anche triste, dove entrambi i giocatori erano chiaramente l'ombra di loro stessi. Fischer, ad ogni modo, vincerà nuovamente. Un gran giurì federale accuserà il campione americano di una violazione criminale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica Federale di Jugoslavia. Fischer rischiava a quel punto fino a 10 anni di prigione e la confisca dei milioni di dollari ricavati dalla partita. Egli non poteva più tornare nel paese. Così divenne un espatriato. Zita rifiutò di sposarlo. La sorella Johan morirà nel 1998, poco dopo la madre. A Bobby non rimaneva più nessuno. Bobby Fischer rilascerà, da lì a poco, dichiarazione di gioia per l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, scatenando un'ovvia reazione furibonda negli Stati Uniti, che faranno di tutto per farlo rientrare in manette nel paese. Finché, nel 2004, egli fu trattenuto dalle autorità giapponesi per presunte violazioni della legge sull'immigrazione. A quel punto l'Islanda gli offrì un passaporto e lo riaccolse dopo oltre 30 anni. Egli continuò con le sue teorie complottiste ed antisemite, finendo con allinearsi anche in questo paese la gente con il suo comportamento. Bobby Fischer non volle accettare le cure per l'ipertrofia prostatica benigna di cui soffriva e rifiutò la dialisi, convinto dei soliti complotti. Bobby Fischer, uno dei più grandi geni mai apparsi davanti a una scacchiera, morirà in Islanda a 64 anni, dopo aver espresso il suo genio solo per un brevissimo tempo. Egli, incredibilmente, ha fatto tutto da solo. Ha penetrato i segreti degli scacchi in uno squallido appartamento di Brooklyn, praticamente senza alcun aiuto. Bobby Fischer era, probabilmente, il miglior giocatore di scacchi che sia mai vissuto. Are you the best player ever that ever was? Obviously, I think so, right? No, first of all, you have to understand something about chess. As I said, I don't like to delve too much into the old chess, right? Because I hate it so much. I feel by delving into it, I'm promoting it in some way. I don't want to promote this goddamn game. My only interest in the old chess, I have one interest, to expose the prearrangement. People are living in a dream world. But don't you think it's paradoxical, coming from the best player that ever was, and now saying it is the most... Life is like that, no? Yeah. Life paradoxical.